Essere una tigre bianca sulla pista del tuo odore, oppure un cervo pomellato rassicurato dal tuo accanto incedere. Potrei con un ramo di pesco far scendere una nuvola insieme ai petali raccolti, intrecciare un cuscino che ti sia di conforto quando ti sentirai sola. Potrei soffiare via ogni fata morgana dall'asfalto, coprire la distanza che ci separa con un eroico salto. Potrei, ma poi non potrei più scriverti. Potrei essere una tigre bianca.